2024 di Enrico Pagliarini. Sono le 15:32 minuti, bentornati a 2024, questo è il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro numero verde per chiamarci in diretta, anche oggi, nel nostro sabato pomeriggio, 824 0024. Come vi ho anticipato, oggi parliamo di Steve Jobs, della Apple, partendo dalle novità che sono state presentate questa settimana, poche ore prima della morte di Steve Jobs. Naturalmente potete chiamarci proprio su questi temi per dare anche il vostro contributo alla nostra trasmissione. Se preferite inviarci un SMS 349-238-6666, potete anche entrare nella nostra pagina Facebook, la trovate molto facilmente scrivendo 2024, oppure scriveteci una email a 2024@radio24.it. Prima di iniziare con il tema di questa puntata, vi do alcune notizie. Non ci sono tantissime notizie importanti che riguardano il mondo della tecnologia, ma facciamo un po' il punto della situazione su alcuni temi che riguardano l'Italia. Il primo riguarda il diritto d'autore, perché il presidente dell'autorità delle comunicazioni, l'Agicom, Corrado Calabrò, chiede una riforma delle leggi che regolano il diritto d'autore per adeguarlo all'evoluzione tecnologica. Sono 70 anni che si parla di questa riforma, ha detto. Quanto tempo ancora dobbiamo aspettare? Si chiede appunto Calabrò, e soprattutto chiede Calabrò al Parlamento. Nel frattempo, va ricordato, l'autorità sta per adottare un regolamento che dovrebbe regolare la materia, un provvedimento criticato ampiamente, di cui abbiamo parlato anche nel corso dell'estate, attualmente in fase di consultazione pubblica e che deriva dal noto e anche in questo caso molto criticato decreto Romani. A proposito del ministro Romani, dopo che di fatto è fallito il suo tavolo per riunire gli operatori a discutere della rete di prossima generazione, arriva un'ulteriore bocciatura dal mercato. Vito Gamberale ieri, Gamberale è l'amministratore delegato del fondo F2I che controlla MetroWeb, ha detto che non serve alcuna nuova società per realizzare la nuova rete in fibra ottica, così come proposto dal ministro. Si tratterebbe di un ritorno indietro nel passato di 20 anni, quando c'era l'Iritel candidata naturale, dice Gamberale, è invece MetroWeb la società che ha cablato Milano in fibra. Questa proposta ha raccolto il consenso dei principali operatori. Naturalmente Gamberale tira l'acqua al proprio mulino. Il dibattito tra pubblico e privato è in atto, cioè alcuni dicono per costruire questo network, questa infrastruttura fondamentale per il paese, è necessaria una società pubblica, un intervento pesante pubblico, naturalmente poi partecipato anche dai privati. C'è invece, e l'ultimo nella lista che citiamo appunto Gamberale ieri, dice no, serve l'intervento dei privati. Una cosa è certa, che sia il pubblico che il privato in questo periodo di soldi ne hanno pochi, e qua stiamo parlando di un'infrastruttura che costa sicuramente a seconda dell'ampiezza, a seconda della capillarità, 10, 12, 15 miliardi fino a 20 miliardi di euro. Sono molti soldi, anche se confrontata questa infrastruttura con altre forse al giorno d'oggi meno utili, che stanno diventando sempre meno utili, non stiamo parlando di tantissimi soldi. Probabilmente per fare poche gallerie, pochi chilometri di autostrada si spenderebbero gli stessi soldi. Certo è che questa è un'infrastruttura fondamentale. Un'ultima notizia riguarda la Commissione europea, che ha dato il via libera all'acquisto di Skype da parte di Microsoft, quindi non sono state valutate significative le richieste avanzate dalla milanese MessageNet. L'operazione, si legge in una nota di Bruxelles, non creerà ostacoli significativi alla concorrenza. Su questo punto vi proporremo un approfondimento nella nostra versione podcast. Quindi vi ricordo che poco dopo la fine della trasmissione sarà possibile scaricare il file MP3 della nostra trasmissione. All'interno della versione podcast vi proporremo un servizio, un approfondimento su questo tema, cioè sul via libera da parte della Commissione europea all'acquisto di Skype da parte di Microsoft. Bene, oggi come vi dicevo parliamo delle novità presentate dalla Apple questa settimana, in una settimana che, come ampiamente abbiamo raccontato alla radio, come hanno raccontato i siti internet e i giornali in tutto il mondo, devo dire che in questo caso i giornali, soprattutto in Italia, sono arrivati in deciso ritardo perché la notizia è arrivata nella notte italiana. In questo caso internet e la radio dimostrano la loro velocità nel comunicarvi le notizie. Saluto Massimo Morandi. Ciao Massimo, bentornato a 2024. Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti. Massimo Morandi è il nostro esperto di telefonia mobile e dirige il magazine cellulare Magazine, chiedo perdono per il gioco di parole, e anche un altro che voi avete lanciato un po' dopo, che si chiama Smartphone Magazine, giusto? Esattamente. Dovreste fare una fusione, perché oramai parliamo quasi solo di smartphone. Sì, anche se sono comunque due mondi ancora abbastanza lontani, che si toccano, ma si stanno differenziando. Sì, hai ragione. Noi crediamo che tutto sia diventato smartphone. In realtà di smartphone si parla di una ventina di milioni in Italia, quando sappiamo che di cellulari forse ce ne sono due o tre in alcune famiglie per persona. Quindi è la crescita degli smartphone che è spaventosa, sì. Ma a livello globale il numero dei cosiddetti telefonini o feature phone, come vengono chiamati, sono ancora la maggioranza, insomma. Senti, questa settimana, martedì, diciamo dal punto di vista tecnologico, la settimana è stata caratterizzata dal lancio di un nuovo prodotto. Tutti si aspettavano l'iPhone 5, noi la settimana scorsa avevamo detto ci risentiremo tra 7 giorni e parleremo dell'iPhone 5. In realtà non è solo una questione di numeri, è stato presentato il 4S. Alcuni dicono una presentazione deludente, non tanto dal punto di vista mediatico, perché sul palco non c'era Steve Jobs. Ricordiamo che questa presentazione è avvenuta poche ore prima, il giorno prima della morte di Steve Jobs, che per alcuni è arrivata quasi improvvisa, anche se insomma si sapevano delle condizioni di salute di Steve Jobs. Dicevo, non tanto per questo, ma perché sono mancate delle vere novità dal punto di vista tecnologico. Io ho detto, parlando in radio il giorno dopo, all'alba insomma della presentazione, è mancato quello che gli americani chiamano wow announcement. E secondo me lo si è capito anche subito all'inizio della conferenza stampa, dove naturalmente un Tim Cook molto molto emozionato e anche un pochino sottotono ha cominciato a presentare il successo degli store, il successo di tutta la parte dei notebook, delle app di cui forse non si sentiva esattamente la mancanza, fino ad arrivare a quello che avrebbe dovuto essere l'annuncio della giornata, cioè l'iPhone 5. Molti dei presenti erano certi che avrebbero visto il numero 5. Al di là delle cifre, sto dicendo naturalmente un telefono molto più evoluto di quello che in realtà è stato presentato. È arrivato invece questo 4S, che in verità mantiene un po' la strategia che in tutti questi anni ci ha proposto Apple, la strategia del pendolo, come lo chiamano gli americani, quella del TikTok. Un anno si presenta una grande novità, l'anno dopo la si perfeziona e la si sviluppa. In questo caso il 4S è più un perfezionamento, è assolutamente un perfezionamento del 4. Potremmo dire che è un aggiornamento del 4, anzi secondo me ci mettiamo un minuto a raccontare le novità, poi invece ce n'è una sulla quale ci concentreremo in modo più ampio. Verissimo, iniziamo dall'estetica, è uguale, identica alla misura, sono identici i pesi e tutto quanto. Le novità stanno all'interno, e quali sono? Beh, forse la fondamentale è l'adozione del processore A5 che già avevamo visto sul nuovo iPad, che permette consumi minori e naturalmente un processore dual core che velocizza ulteriormente il dispositivo. Fotocamera passa da 5 a 8 megapixel, ma anche qui è comunque un discorso poco palpabile, perché abbiamo spesso detto da questi microfoni che non è solo la quantità di megapixel a fare una foto più bella. Video in HD, quindi miglioramento generale della fotocamera a 1080p. Ci sarà la versione da 64 giga, ancora una volta la memoria non è integrabile, quindi batteria chiusa e memoria non integrabile, bene sottolinearlo. Autonomia accresciuta, anche qui è un dato in questo momento ci dobbiamo fidare del dato che è stato offerto dal produttore, poi saranno naturalmente i nostri test a capire. Qui si parla di da 8 a 14 ore in conversazione, a seconda che si utilizzi il dispositivo in 3G o in 2G, addirittura 40 ore di riproduzione audio. Diciamo che le novità potrebbero finire qua e sono dette in pochi secondi. Ce n'è invece un'altra che è forse quella più interessante, che si chiama Siri. Ed è dal nome di un'azienda acquisita da Apple, un'azienda passato, che si occupa di interazione vocale. Esatto, e questo è trasforma l'iPhone in un vero e proprio assistente vocale. Attenzione, so che tocchiamo un punto un po' delicato, perché spesso le funzioni vocali dei telefoni non funzionano male, sono utilizzate anche poco. Qui in realtà la novità c'è, si tratta di un assistente vocale che non deve essere particolarmente addestrato e dovrebbe essere in grado di comprendere le classiche frasi che diciamo noi parlando, non impostate, quindi il classico lessico da conversazione. Quindi noi siamo in grado di dirgli: non dobbiamo dire meteo per sapere che tempo farà domani, ma basterà dirgli: ma domani che tempo fa? E questo rende la funzione particolarmente interessante. Per il momento, va detto subito, questo software non funzionerà in italiano, ma funzionerà in inglese, in tedesco e in francese. Naturalmente ci auguriamo che questa novità poi venga portata anche in traduzione. Certo. Saluto il professor Giuseppe Riccardi, che è docente di sistemi interattivi presso sistemi interattivi vocali presso l'Università di Trento ed è uno dei più autorevoli esperti delle tecnologie cosiddette di Natural Language Understanding, cioè della comprensione del linguaggio naturale. Naturalmente stiamo parlando di comprensione da parte di una macchina. Professore, benvenuto, grazie di aver essere con noi. Grazie, buon pomeriggio. Senta, di che tipo di tecnologie stiamo parlando quando parliamo di questa novità, ma di comprensione del linguaggio naturale? Praticamente quello che veniva menzionato prima, cioè la capacità di riconoscere in prima battuta, cioè quello che molti hanno già sperimentato, la capacità di trascrivere un SMS o di trascrivere un'email. E questa è una tecnologia alla base di questi assistenti personali o assistenti virtuali. Ma quello che verrà esposto, diciamo così, una volta che questo telefono verrà preso in mano da molte persone, è un'esperienza. È questo che mi piace più definirla, perché vorrà dire che oltre alla capacità di trasformare un'onda vocale in un testo, questo assistente sarà capace di estrarre un significato. E quindi nel caso in cui si voglia chiedere che tempo fa, verranno acquisite informazioni relative al tempo, però questo assistente coniugherà la capacità di comprendere con altre capacità con quale noi umani siamo abituati, consapevolmente usiamo, capacità di sentire. E quindi sfrutterà molto la sensoristica a bordo. E non da ultimo la capacità di trasformare le parole e questi concetti in azioni, cioè la capacità con semplicissime frasi di riuscire a connettersi al proprio caro, al proprio figlio con una semplicissima frase che è di tipo conversazionale. Come nel linguaggio naturale, insomma. Esattamente, ecco perché si parla di linguaggio naturale, perché ci si aspetta di non dover insegnare una nuova lingua, così. Sono le 15:45, adesso c'è la viabilità, ci risentiamo tra un minuto. 2024. Massimo Morandi, quando uscirà in Italia, perché siamo naturalmente più interessati al nostro paese, questo nuovo prodotto? Allora, in Italia uscirà il 28 ottobre. In realtà l'Italia, come spesso succede con Apple, non sarà il primo prodotto a vedere primo paese a vedere questo prodotto, arriverà prima in Francia e in Germania. E infatti il prezzo italiano non c'è ancora, poi lo decideranno naturalmente gli operatori che veicoleranno nuovo iPhone. Ci sono però i primi prezzi di Francia e Germania che confermano che l'iPhone costerà tanto. Quindi sarà venduto in Francia e in Germania 16 giga a 629 euro e a crescere naturalmente tutte le altre versioni con memoria potenziata. Si arriva a 849 euro circa in Francia e addirittura 919 euro in Germania, quindi sono pazzesco, comunque prezzi assolutamente di top di gamma, quale comunque questo iPhone è. Questa è un'altra delle capacità delle aziende, riuscire a vendere un prodotto che costa un sacco di soldi. Professor Riccardi, quando parliamo di questo prodotto, il Siri, in questo caso mi pare che il nome non sia proprio eccezionale, ma del resto è stato preso il nome dell'azienda che è stata acquisita dalla Apple nell'aprile del 2010, un'azienda nella Silicon Valley che si occupa di tecnologie di sintesi e riconoscimento vocale. Mi sembra di capire che stiamo parlando da una parte di riconoscimento della voce, la prima tecnologia, dall'altra di sintesi vocale, quindi della capacità poi del telefono, ma di questa applicazione di creare una voce artificiale. In mezzo che cosa c'è? Sì, in mezzo c'è la semantica e poi la capacità di trasformare la semantica in azioni. Faccio un esempio. Probabilmente, non so se avete già sperimentato, ma già usando Google, voi se usate i comandi vocali, Google è vero che trascrive quello che viene detto, quindi non comprende, ma se voi andate a vedere i risultati, vedrete che alcuni di questi risultati vengono annotati semanticamente. Quando voi per esempio cercate un ristorante, vi darà delle indicazioni se dovrete ristorante nelle vostre vicinanze e vi daranno anche la possibilità di chiamarlo direttamente. Ecco, questa capacità di capire cosa c'è, quali azioni possono essere nello spazio, diciamo così, semantico delle parole che sono state dette. Questa è la novità rispetto a tutti gli altri prodotti che si vedono in giro e che, come veniva citato prima, spesso non vengono molto usati. Ma è questa anche la grande scommessa, cioè se l'utente userà e capirà le prestazioni di questo assistente virtuale, è molto probabile che potrebbe essere effettivamente l'inizio di una nuova era, nel senso che probabilmente il sogno che abbiamo noi ricercatori da 50-60 anni di creare intelligenza artificiale sarà l'alba. Ecco. Sì. Lei ha lavorato anche per nei Bell Labs negli Stati Uniti per circa 15 anni. Sì. E ha studiato anche nei Bell Labs queste tecnologie. Sul mercato una cosa del genere non esiste assolutamente, o diciamo ci possiamo aspettare che questa sia migliore rispetto ad altre che esistono? Guardi, mi faccio fare un commento. Questo di Siri è un tipico esempio di innovazione, cioè la capacità di impattare la nostra vita. Questo non vuol dire che la tecnologia non esista e che ci siano degli attori importanti sul mercato. Quando eravamo ai Bell Labs, infatti, anzi faccio un salto indietro, a metà anni 80, Scully, l'ex CEO di Apple, fece questo video, lo chiamò Knowledge Navigator, non navigatore della conoscenza. Sostanzialmente la visione di questo assistente virtuale e personale era già lì. Quindi sono passati 30 anni. Faccio conto che nel frattempo, appunto, i Bell Labs abbiamo fatto dei prototipi di assistenti virtuali, metà anni 90 abbiamo anche fatto delle messe in campo, però allora c'era solo il telefono. Attualmente, per esempio, ultimamente, circa 3-4 anni fa, abbiamo fatto una sperimentazione in collaborazione con Loquendo, ho costruito il mio assistente virtuale all'università che si prendeva a carico di rispondere alle domande dei miei studenti e insomma, mi aiutava a gestire, diciamo, le comunicazioni. Quindi ci sono in giro, è una tecnologia su quale pochi lavorano, vediamo a livello industriale, ma è disponibile. Massimo, tu volevi fare una domanda al professore. Sì, volevo fare una domanda. Buongiorno professore. È una domanda forse sociologica. Naturalmente intravediamo tutti quali sono le prospettive di questa tecnologia e soprattutto di questa ricerca. Ma siamo davvero sicuri che è il telefonino il dispositivo giusto su cui lanciare questo tipo di interazione vocale? Che è proprio un prodotto che forse siamo tanto abituati a utilizzare sempre in mobilità e in modo completamente diverso proprio come tipo di interazione? No, infatti gli esempi che citavo prima, ci sono già delle applicazioni industriali su quale si è lavorato, mi sembra, ovviamente dell'Ebert, che sono già presenti sul mercato, che noi consumatori non vediamo, ovvero esistono già in campo degli assistenti virtuali che lavorano nei call center. Addirittura negli Stati Uniti, quando hanno fatto un sondaggio, hanno chiesto alle persone se preferivano parlare con una persona o un assistente virtuale. La risposta è stata che nel 60% dei casi in cui la risposta, diciamo così, è possibile da un computer, loro preferivano il computer. Quindi dal punto di vista sociologico, l'inserimento sarà lento, ma c'è già, non è ancora visibile. Siri credo che lo renderà visibile a milioni di persone. Ecco, questa è la differenza. Per quanto riguarda il dispositivo, non è l'unico, ma decisamente è l'unico che attualmente presenta le condizioni per costruire una macchina intelligente, dove per declinare l'intelligenza facevo appunto prima riferimento alla capacità di sentire attraverso i sensori, di conoscere e quindi di acquisire tutta la conoscenza, lo stile sul web e anche la conoscenza dei social media e portarla dentro, e la capacità di relazionarsi a una persona, cioè al possessore del telefonino, e quindi di conoscere di più della persona. Ecco, tutto questo adesso si riesce a mettere in un telefonino. Non ne nascondo che era una conferenza recentemente a Firenze dove c'è qualcuno che sta pensando a altri dispositivi che non assomigliano per niente ai telefonini, decisamente non come li vediamo adesso, e che in futuro avranno un altro tipo di capacità, che per adesso questo non ho, e la capacità affettiva, cioè quella di riuscire anche a stabilire degli affetti, così come le persone. Incredibile. Professore, rimanga con noi, magari la richiamiamo tra poco perché la comunicazione non era delle migliori, non le chiediamo quale telefono sta utilizzando. Volevo chiedere a Massimo, visto che in rete abbiamo 2 minuti prima delle notizie di GR24, c'è stata un po' di delusione perché non è arrivato il 5, insomma non è un prodotto nuovo, completamente nuovo, ma c'è una motivazione che ha un senso commerciale, diciamo così. Sì, ed è quella, molti hanno parlato delle pressioni degli operatori che vendono l'iPhone per dettare i tempi d'uscita dei nuovi iPhone. Il motivo, vogliamo spiegare un attimo qual è che la maggior parte degli iPhone vengono venuti dagli operatori mobili, che ne fanno naturalmente un prezzo spalmato su 18-24 mesi. Classico, il telefono subito per un monte dati con una cifra mensile che poi si deve versare. Questo fa sì che va bene che esca un iPhone ogni anno e che gli operatori prevedano comunque dei piani per far passare i propri clienti dall'iPhone vecchio all'iPhone nuovo, ma in realtà questo è un ciclo che non si può velocizzare troppo, perché gli operatori hanno bisogno di rientrare naturalmente di questa sorta di credito sui propri consumatori, per poi comunque lanciare un altro prezzo e un altro tipo di formula di finanziamento a 18-24 mesi. E non è un caso che, notizia di ieri, con molta probabilità l'iPhone 5, che poi si chiamerà così in un altro modo ancora non lo sappiamo, potrebbe arrivare addirittura alla fine del prossimo anno. Per allungare appunto questo per chiudere tempo. Il ciclo dei 24 mesi. Dunque, vi ricordo il nostro numero verde, se volete chiamarci tra poco nella seconda parte, in modo particolare parleremo più ampiamente della storia della Apple naturalmente di Steve Jobs, del contributo che ha dato alla tecnologia anche con l'aiuto di Antonio Dini, potete anche chiamarci su, visto che vedo alcuni sms su questa tecnologia di interazione vocale. Dicevo, numero verde 800 24 0024, vi aspettiamo, ci risentiamo dopo le notizie di CR24. E adesso, come vi anticipavo poco fa, il nostro approfondimento, un servizio realizzato da Giacomo Segantini sul Via Libera all'acquisto di Skype da parte di Microsoft, con uno sguardo anche al passato e alla lunga storia di un rapporto non facile tra l'antitrust europeo e Microsoft. I tempi nel mondo della tecnologia stanno veramente cambiando. Mentre molti ancora piangono la morte di Steve Jobs, da Bruxelles arriva la notizia che l'antitrust europeo ha dato il via libera all'acquisizione di Skype da parte di Microsoft. Annunciato a maggio, l'acquisto di Skype è la più costosa operazione mai effettuata dal gruppo di Redmond in 36 anni di storia. 8 miliardi e mezzo di dollari il prezzo, troppo per alcuni, ma così facendo sono stati esclusi gli altri colossi interessati. Un costo che non si spiega tanto con la capacità dell'azienda di tecnologia VoIP di generare guadagno, anzi Microsoft si accollerà 686 milioni di debiti, ma con la necessità di acquisirne la tecnologia che permette le chiamate da PC a telefono fisso, e soprattutto la base utenti, oltre 100 milioni di computer connessi ogni mese. La cosa aveva sollevato la preoccupazione di molte aziende che si erano rivolte all'antitrust durante la fase di consultazione pubblica. Tra queste spicca la milanese MessageNet, che ha protestato chiedendo di vietare il bundling dei prodotti e invocando l'apertura dei protocolli per permettere l'interoperabilità tra il suo servizio e Skype. Ma dopo il via libera americano a giugno, ieri è arrivato quello europeo. L'operazione non crea ostacoli significativi alla concorrenza. Brad Smith, capo dei legali di Microsoft, esulta per il risultato. Forse meno per la motivazione. Nel settore, dice Bruxelles, c'è già abbastanza competizione, essendo attivi molti player, tra cui Google con il suo Talk. Resta da vedere come verrà tradotta in pratica la fusione. A tornare sotto la lente dell'antitrust si fa in fretta, tanti i precedenti che lo attestano. Prima la battaglia sull'interoperabilità dei server, che ha costretto Redmond a rilasciare i protocolli di comunicazione. Poi la polemica sul lettore Windows Media Player preinstallato, che ha costretto a far uscire in Europa una versione del sistema operativo che ne era priva. E infine la questione del browser, risoltasi tramite il famoso ballot screen che permette di scegliere tra programmi differenti, per non parlare delle multe, sempre salatissime. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tutto ciò è importante anche per sottolineare o risottolineare il rapporto a volte difficile tra la regolamentazione dei mercati e l'innovazione tecnologica. Adesso torniamo al tema della nostra puntata. Questo era un approfondimento in esclusiva per chi ha scaricato la versione podcast, il file MP3 di 2024. Riprende 2024 la seconda parte della nostra trasmissione. Vi ricordo che al termine, poco dopo il termine della trasmissione, sarà disponibile il file MP3 di 2024 all'interno del servizio podcast di Radio 24. Ringrazio Carmelo Lauricella che si occupa della parte tecnica in questa puntata e anche Alessandro Balia in redazione che ci sta aiutando anche con l'aiuto del centralino per le telefonate, per l'interazione vocale con gli ascoltatori. A proposito di interazione vocale, tra poco riparleremo di questa novità presentata assieme all'iPhone 4S, Siri, chiamata Siri, ma volevo prima chiedere a Massimo Morandi, direttore di Cellulare Magazine, di ricordarci altre novità che usciranno un paio di giorni prima, verranno rese disponibili un paio di giorni prima l'uscita sul mercato negli Stati Uniti e anche in altri paesi, come tu ci hai ricordato, del nuovo iPhone. Ma allora, naturalmente molte novità sono sulla nuova piattaforma di iOS 5. Qualche novità l'abbiamo vista sull'hardware, molte novità sono sulla piattaforma, che è stata presentata già da prima dell'estate, ma sarà scaricabile e installabile a partire dal 12 ottobre. Beh, qui ci sono tante cose interessanti. Innanzitutto c'è questo iMessage, che è una piattaforma di chat istantanea che si può utilizzare dai dispositivi. Sì, hanno preso spunto Apple. Dal BlackBerry in questo caso. iPod, iPhone, iPad, esatto. Sì. Naturalmente questo è il significato del nuovo software. L'aggiornamento, anche qui si potrà fare l'aggiornamento direttamente del firmware del software direttamente dal cellulare senza doversi collegare al computer o ad iTunes. Twitter, c'è una maggiore integrazione con questo social network e soprattutto forse la novità più attesa è quella di iCloud, che sarà un modo tutto nuovo di sincronizzare lo smartphone utilizzando uno spazio esterno, quindi uno spazio sulla nuvola, sul cloud. In the cloud, certo. In the cloud. Quindi praticamente, giusto per fare un esempio, se io faccio una fotografia, il sistema, senza che io sappia nulla, senza che io me ne accorga, copia questa foto in the cloud, quindi nei sistemi della Apple. Tra l'altro è stato costruito un data center gigantesco negli Stati Uniti, e mi viene replicata quella foto su tutti gli altri dispositivi collegati, quindi sul mio computer, se ho un Mac, sull'iPad, eccetera. Quindi questo è importante sia dal punto di vista di poter consultare gli stessi dati da più dispositivi, sia anche dal punto di vista di poter avere sempre un backup di tutto il dispositivo qualora lo si perda, lo si smarrisca o si guasti. Sì. Queste sono le novità in arrivo dal... È tutto gratis? Allora, è gratis fino a 5 giga, quindi questo è quello che offre Apple al consumatore. Dopodiché, chi ha bisogno invece di più spazio, sì, lo acquisterà. Ma l'iOS 5, cioè il nuovo sistema operativo, anche questo è gratis? iOS 5 si può scaricare dal 12 ottobre gratis. Benissimo. Sentiamo Elena che ci chiama. Vi ricordo il nostro numero verde se volete contribuire alla nostra trasmissione, 824 0024. Elena, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Certo. Quello che volevo dire io è che la Apple ha una novità, non una novità, è una cosa che già da 2 anni che c'è, però adesso e anche in italiano, anche sull'iPhone, quindi Steve Jobs ha sui suoi dispositivi, sia iPhone, iPad, iPod, Touch, eccetera, sia i Mac, ha messo una tecnologia accessibile a tutti. Io sono una persona non vedente, assoluta, ho comprato l'iPhone, l'iPod, Elena, di che tecnologia sta parlando? Una tecnologia assistiva, ovvero il computer o il telefono parlano, mi descrivono a voce direttamente quello che c'è scritto a schermo. Ha un nome questa tecnologia? Voice over. Quindi lei dice, questo è un contributo che è stato dato alle persone come lei, insomma, che non vedono. Sì, perché le altre piattaforme concorrenti, sia fisse che mobili, hanno dei costi aggiuntivi per poter parlare, per poter interagire con le persone non vedenti. Devi pagare di più perché sei disabile, insomma. Chiarissimo. E poi comunque anche quelle gratuite sono prodotte sempre da terze parti, mentre questo è già prodotto, già inserito nel dispositivo Apple, per cui non hai da aver paura di aggiornamenti di licenze o cose di questo Chiarissimo. Tipo. Chiarissimo. Elena, la ringraziamo per il suo contributo. Professor Riccardi, ricordo che il professor Riccardi è docente di sistemi interattivi vocali presso l'Università di Trento, ci ha parlato di questa novità del Siri. È come dice Elena, anche dal punto di vista tecnologico, diciamo. Sì, anzi invito a vedere un po' la demo anche sul sito americano, si usa la sintesi vocale, esattamente un bel uso, ecco, diciamo, un uso per rendere più accessibili i computer e tutte le funzionalità a persone con disabilità, e appunto Siri dovrebbe esattamente utilizzare tutto quello che c'è già di disponibile, sia a livello di riconoscimento per tutti, di sintesi, per modulare a seconda delle disabilità e quindi dare accesso anche come nel caso dell'ascoltatore. Ci sono alcuni ascoltatori che via SMS, preferisco sempre prendere le telefonate perché la voce, tra poco sentiremo Matteo, però alcuni SMS di persone che dicono: ma questa interazione vocale esiste anche con Google, in modo particolare con i sistemi Android. Forse vanno ridette due cose del perché questa, poi la proveremo, è una novità. Cioè, qual è la differenza, insomma? Sì, sì, mi pare di averla citata anche prima. Sostanzialmente Google, il merito di aver introdotto sui cellulari, smartphones, la capacità di usare il riconoscimento vocale, quindi tradurre in testo quello che viene detto e quindi di usare la propria voce per cercare un documento tramite il loro search engine, ma non solo. La differenza appunto è che loro si fermano lì o quasi lì, perché come citavo Google fa altre cose, ma non ha assolutamente la capacità di interagire come un assistente personale, e che quello che caratterizza le dimensioni, che caratterizza il sistema personale, è quello di interagire e quindi capacità di avere memoria di dove si è, quindi memoria di breve termine e anche memoria di lungo termine. Sì, sì. La capacità di sapere chi sei, quindi quali sono le tue preferenze, se ti piace andare in un ristorante cinese piuttosto che un indiano. Sì, sì, sì, chiaro, chiaro, chiaro. E così via. Quindi, sentiamo Matteo che ci telefona da Milano. Buongiorno Matteo. Sì, buongiorno. Prego. Niente, io volevo sapere, nel caso della traduzione verso l'italiano, per la questione dei dialetti, prima domanda, poi non so, problemi. Lei va proprio sul difficile, vuole addirittura interagire in dialetto. No, cioè nel senso che in realtà molte persone in Italia usano il dialetto nel parlare. Sì, sì, o comunque delle inflessioni, certo, certo. Delle inflessioni. Quelli con difetti di pronuncia, che potrebbe essere un R arrotato, un S sibilante, cose di questo genere. E terzo, i modi di dire veramente un po' particolari, tipo, non so, anziché dire sto lavando i piatti, alla domanda che uno può porre, non so, cosa stai facendo, questo risponde faccio i piatti, intende dire sì, che sì, sta costruendo, sì. Ma ovviamente sì. Mi sta lavando. È un'ottima osservazione, un'ottima domanda. Grazie Matteo, buona giornata, buon lavoro, buon weekend, visto che siamo weekend. Massimo. Ma dunque sì, naturalmente poi questa tecnologia è una tecnologia che sta evolvendo, ma crescerà molto, ma naturalmente col dispositivo, con un telefonino dovremo parlare italiano e non dialetto. Invece una cosa che è molto interessante... Però a proposito dell'italiano, tu volevi... Io volevo chiedere una cosa al professore, perché noi abbiamo detto che in questo momento questo software Siri non è disponibile in italiano. Secondo lei che implicazioni ci saranno e quanto tempo ci vorrà per portarlo anche nella nostra lingua? Professor Riccardi. Dunque, se faccio l'esempio di cosa è successo con Google, che per solo localizzare la capacità di riconoscere, quindi uno solo dei mattoncini, quindi capacità, ci ha messo circa un anno e mezzo, invece in questo caso parliamo di un qualcosa di molto più complesso e articolato, e attualmente, facevo esempi, esistono già degli assistenti virtuali con i quali noi sperimentiamo e ci sono anche altre aziende che hanno sperimentato in italiano. Il problema non è la lingua, semmai credo la domanda fosse come si fa ad andare, non so, dall'inglese all'italiano, sì, sì, esatto. Ci sono, cioè, e ci quanto sono, tempo ci vuole? Io mi aspetto che entro un anno, massimo due, dovrebbe arrivare in Italia. Questo per essere conservativi, però voglio dire, nella mia esperienza l'anno è un buon margine. Sì, c'è un altro aspetto. Ce lo dice tra poco, perché c'è la viabilità, ci risentiamo tra un minuto. 2024. Le 16:17 minuti, il nostro numero verde è 800 24 00 24. Professor Riccardi, a proposito non solo dell'italiano ma del dialetto o delle frasi che non sono corrette in lingua italiana, ma come ci ricordava poco fa il nostro ascoltatore, che capacità hanno questi sistemi di capire in realtà quello che stiamo dicendo, al di là di se io invece di dire meteo dico ci vuole l'ombrello domenica e magari il sistema capisce che sto cercando informazioni meteo. Sì, per dare un po' un flash su quello che sono le tecniche di apprendimento, questi computer, prima di o per programmare questi computer, leggono molti giornali che sono pubblicati in giro per internet, quindi sanno come le persone scrivono e sanno anche come le persone parlano. E quindi ascoltano, e cosa succede? Che cioè una fase di addestramento dove si ascoltano e si imparano quali sono i modi di dire, si impara questa lingua delle conversazioni, che è una lingua chiaramente diversa e che deve assolutamente soddisfare altri criteri. E per quanto riguarda i dialetti, praticamente seguendo praticamente lo stesso paradigma, cioè di apprendimento per esempi, questi computer ascoltano persone che parlano la stessa lingua in posti diversi. Quindi mi ricordo molti anni fa, quando Xelt all'epoca aveva fatto un sistema, aveva raccolto dati in giro per l'Italia, e appunto cercando di modulare ed imparare dai vari accenti. Poi la macchina è capace di generalizzare, quindi di andare oltre. Quindi diciamo che non sarebbe un problema, insomma, tecnologico. No, infatti sì. Negli Stati Uniti noi abbiamo messo in campo un sistema che capiva l'inglese parlato da 250 milioni di persone, che includeva accenti e così via. Sì. Sentiamo Leonardo da Roma, buongiorno Leonardo. Buongiorno a voi, sentivo appunto la vostra trasmissione nella quale si parlava di sistemi flessibili, smartphone e iPhone. Io vengo adesso via da un congresso internazionale che si è tenuto a Roma, dove un'azienda ha presentato un ecografo molto interessante, piccolissimo, del peso di 380 grammi. Immagino le applicazioni che si riescano a ottenere utilizzando un sistema per visualizzare le immagini all'interno del corpo. È stata una cosa veramente sconvolgente, come la tecnologia sia veramente al servizio delle persone, nella fattispecie dei medici. Questo non so se posso dire il prodotto che hanno presentato. Certo che lo può dire. Ok, il prodotto si chiama V-Scan, è prodotto dalla sì. General Electric, l'hanno presentato e... C'entra, non ho capito cosa c'entra con gli smartphone. La dimensione è veramente molto piccola, si parla di 380 grammi, cioè è alla dimensione dell'iPhone. Chiarissimo, grazie Leonardo. Ci si stupisce sempre delle dimensioni molto piccole della tecnologia che migliora... mese dopo mese. C'è poi un capitolo, visto che Leonardo ha citato il mondo della sanità, si chiama e-health, quindi sanità digitale, un capitolo amplissimo sul quale io ho due o tre interviste che prima o poi vi farò ascoltare. Professor Riccardi, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, a presto. Bene, tra poco avremo con noi Antonio Dini, che forse è già collegato con noi, non è ancora collegato. Allora Massimo, diciamo anche a proposito del 4S, abbiamo citato 2024 un po' di volte, questa querelle che sta andando avanti con la Samsung. Poche ore dopo l'annuncio di questo nuovo prodotto, la Samsung di nuovo si è fatta sentire. Per quale motivo? Ma addirittura prima che il prodotto venisse presentato, un paio di settimane prima. Voi vi ricordate sicuramente quello che è successo quest'estate con Apple, che ha depositato un'ingiunzione presso la corte di Düsseldorf per bloccare il Galaxy Tab 10.1, l'ultimo tablet della casa coreana. In realtà si discute sempre di brevetti, e si discute di brevetti, e di brevetti si discuterà ancora. Pare infatti che tra i tantissimi brevetti che stanno in un telefono, l'iPhone utilizzerebbe, sempre secondo quello che abbiamo letto in questi giorni, dei brevetti di proprietà di Samsung relativi alla trasmissione 3G e alla trasmissione wireless. Quindi la minaccia che il produttore coreano in questo senso possa comunque servire un piatto freddo, di una vendetta molto fredda, è più che reale, soprattutto in Italia e in Francia, perché poi sappiamo bene che come è andata poi anche col Galaxy Tab 10.1, non è vero che le vendite sono state bloccate in Germania, ma la sussidiaria tedesca non può vendere direttamente. Ma lo può importare da qualsiasi altra sussidiaria e comunque metterlo sul mercato tedesco. Vedremo un po' come cosa accadrà per l'iPhone. Anche perché va detto, non bisogna prendere troppo sul serio queste che sembrano battaglie, in realtà sono colpi di fioretto. Va ricordato che tra i più grandi clienti di Samsung c'è proprio l'Apple, quindi... Sì, assolutamente. Più di 200 componenti del vecchio iPhone erano realizzati e forniti da Samsung, quindi bisogna saper leggere anche dietro queste battaglie legali. Ci sono naturalmente delle strategie industriali. Sono le 16 e 23 minuti, benvenuto ad Antonio Dini. Antonio, ciao, bentornato. Buongiorno Rico, buongiorno a tutti. Antonio Dini è sicuramente in Italia tra quelli che conoscono meglio il mondo Apple e anche Steve Jobs. Quante volte lo hai incontrato, visto, conferenze stampa, interviste, eccetera? Parecchie volte, sono 10 anni, anzi 11, che mi è capitato di seguire Apple in prima persona, cioè non da lontano ma dalla platea dove Steve Jobs e poi dei ristretti spazi per le interviste, quindi sono veramente tante. Ricordo che Antonio Dini collabora con il Sole 24 Ore e ha scritto recentemente un libro intitolato Emozione Apple. Una delle domande che molti si stanno facendo in queste ore, poche ore dopo la scomparsa di Steve Jobs, è quanto già di, non dico proprio scritto nel dettaglio, ma quanto sia lunga la roadmap di prodotti già realizzata da Steve Jobs. Alcuni dicono per un anno o due i programmi sono già fatti, c'è addirittura chi dice 4 anni. Tu che cosa ne pensi? La voce che ci siano 4 anni, precisamente 4 anni di prodotti, o è molto vera o è completamente inventata. Quel business è un business in cui il prodotto non viene inventato dalla sera alla mattina, ma richiede anni di pianificazione. E come aveva spiegato una volta lo stesso Steve Jobs durante una presentazione, addirittura si tratta di scommettere molti anni prima sul percorso di sviluppo di alcune tecnologie, lui li chiamava vettori, e arrivare a portarli a maturità azzeccando il momento in cui commercializzarli. Da questo punto di vista sicuramente la Apple di ieri, di stamattina, la Apple con ancora Steve Jobs, ha sempre continuato a studiare quali saranno le tecnologie che potranno essere utilizzate nel prossimo futuro, così come la Apple di parecchi anni fa aveva pianificato ad esempio la creazione di Siri, di un sistema di riconoscimento vocale semantico, o i telefoni e i tablet multitouch. Sicuramente Steve Jobs ha, fra virgolette, lasciato una roadmap di quello che insieme ai suoi uomini aveva deciso essere le tecnologie su cui scommettere. Credo che con maggiore difficoltà si possa immaginare che abbia lasciato una lista dettagliata di prodotti da commercializzare. Ecco, questo non mi sembra molto probabile. Sì. Senti, giusto per avere un'idea, quanto tempo ci hanno impiegato per realizzare l'iPhone, cioè per realizzare un prodotto che rispondesse ai desideri di Steve Jobs, che sappiamo essere stato uomo molto pignolo? Attento ai dettagli, sì. Allora, per fare il secondo, il terzo e il quarto sappiamo che ci vuole un po' meno di un anno. Per fare il primo ce ne sono voluti almeno 7. E la cosa più strana è che in realtà l'iPhone è arrivato per primo, ma è stato pensato per secondo, perché il primo prodotto che era stato pensato era l'iPad, e l'iPad non riuscivano a farlo con le tecnologie a disposizione, non si riusciva ad avere uno schermo multitouch così grande che avesse un consumo abbastanza contenuto da permettere da funzionare con una batteria normale, eccetera, e vari altri dettagli, tant'è che il primo apparecchio che decisero di fare è stato appunto un iPhone. È un lavoro che richiede alcuni anni, la maturazione di una serie di tecnologie, e che probabilmente nella forma in cui vediamo oggi sia l'iPad che l'iPhone è tuttora incompleto, perché manca il completo sviluppo di una parte che è quella di internet, del cloud computing. Vi ricordo il nostro numero verde se volete chiamarci in diretta, 800 24 00 24. Se volete inviarci un sms, 349 238 6666. Potete utilizzare anche la email o Facebook. Un po' di pubblicità, ci risentiamo tra poco. 2024. If there's going to be a third category of device, it's going to have to be better at these kinds of tasks. Se ci deve essere una nuova categoria di device, oltre ai computer portatili e gli smartphone, deve essere anche migliore di questi due, altrimenti non ha ragione di esistere. Alcuni pensano siano i netbook. Jobs dice, ma i netbooks sono migliori in niente. Questa frase che ho scelto durante da una presentazione fatta dell'iPad ci dice molto di Jobs e vorrei chiedere un commento ad Antonio Dini. Una delle caratteristiche di Jobs è questa differenza rispetto a molti altri amministratori delegati, cioè quella di essere molto sincero, molto schietto e molto onesto. Lui dice in questo caso, ma di frasi del genere ce ne sono tantissime, dice: i netbooks non vanno, non funzionano, sono migliori in niente. Battute di questo genere, ripeto, hanno caratterizzato la vita di Steve Jobs e tra l'altro molto spesso diceva la verità. Antonio? Diceva la verità e bisogna dire era una persona estremamente realista. Lui ha parlato più volte del fatto che le sue ambizioni fossero ambizioni molto alte e non caratteristiche di chi si occupa di fare commercio, di voler lasciare un segno nel mondo in qualche modo, di voler dare spazio a un talento anche artistico in un settore apparentemente freddo come quello dell'informatica, però nella sua capacità di fare analisi era decisamente un ingegnere, una persona estremamente razionale, estremamente abile nel cogliere i punti di forza e i punti deboli. In questa grande sintesi poi scattava, si innestava l'abilità del comunicatore, cioè riuscire a convincere proprio con la sinteticità ma estremamente pregnante dei suoi argomenti, convincere la gente che effettivamente avesse ragione lui, che i netbook fossero buoni a non fare niente, che invece ci volesse qualcos'altro e molto meglio. Questo nei fatti in parte si è realizzato, in realtà i netbook sono tutt'altro che scomparsi, ma i giudizi di Steve Jobs hanno sicuramente dimostrato quella che era la sua principale caratteristica, cioè ritengo la visione sintetica di ciò che era importante, scartando via tutto quello che sta intorno e che non è necessario, un orpello, un qualcosa di inutile. Senti, secondo te qual è, e magari questo lo chiediamo anche agli ascoltatori, se vogliono partecipare a questa risposta, secondo te qual è il prodotto che meglio rappresenta il concetto di innovazione, di visione, perché spesso è stata utilizzata questa parola parlando di Steve Jobs, partendo dai primi computer, personal computer, dal Macintosh fino ad arrivare all'iPod, iPad, iPhone, iTunes, eccetera eccetera? Questa è una buona domanda, Rico, anche perché l'impatto di queste rivoluzioni, quella del personal computer e adesso di questi dispositivi mobili, mobile, sono state molto, molto forti in epoche diverse. Per noi due che abbiamo i capelli bianchi, forse iniziamo, può valer la pena di dire che il Macintosh è stata la prima grande rivoluzione. Non è il primo prodotto di Apple, Apple aveva già realizzato la prima genialata, in realtà frutto del talento tecnologico dell'altro fondatore Steve Wozniak, cioè il primo Apple originale che era un assemblato in kit di montaggio, e poi l'Apple II che è stato il cavallo di battaglia dell'azienda per quasi 15 anni, che ha permesso di finanziare la ricerca ed arrivare a un computer, il Macintosh, che in realtà ha distinto Apple da tutte le altre aziende all'epoca molto numerose presenti sul mercato, perché ha introdotto quella famosa interfaccia grafica che adesso ci sembra non solo naturale ma assolutamente scontata nell'uso del personal computer e che solo l'iPhone e l'iPad sono riusciti a superare. L'interfaccia grafica, mi riferisco al fatto che si interagisca con il computer utilizzando il mouse, avendo di fronte a sé uno schermo con delle icone, con dei menu e con delle finestre. Ecco, questo set, tra l'altro, di cose non inventate da Apple. Esatto, bravissimo, perché questo è un altro dei punti. A me, tra l'altro, piace molto sottolineare questo aspetto, perché Steve Jobs e la Apple, ma chi esagera dice non hanno inventato nulla. Adesso forse questa è un'affermazione esagerata, però effettivamente già dall'introduzione del Macintosh si capisce che lui andava in giro, non solo lui, anche Wozniak, nella Silicon Valley e vedeva quello che si stava realizzando, che alcuni avevano inventato, e riusciva a mettere insieme le cose, un po' come è successo con le tecnologie touch. Non sono state inventate dalla Apple né da Steve Jobs, ma lui poi ha reinterpretato questo concetto. Tu hai citato i capelli bianchi, visto che di capelli bianchi ne ha un po' anche Massimo Morandi, addirittura, anzi direi più di me. Tu volevi dire una cosa, Massimo? Ma sì, io al di là dell'impatto tecnologico sono assolutamente d'accordo con Antonio. Volevo sottolineare sul campo della telefonia mobile qual è stato però l'impatto non tanto della scelta costruttiva, ma proprio della scelta sociologica di utilizzo di un telefono cellulare. Se tu pensi che quando poi Apple, iPhone, ha cominciato a parlare di touchscreen e l'ha messo sul suo iPhone, qual è stata la sterzata di tutta l'industria, delle più grandi multinazionali del mondo? E se pensi che ancora oggi, io a livello hardware ritengo che l'iPhone con alcuni modelli altri produttori l'abbiano comunque superato quanto a evoluzioni e a integrazione di componenti, ma se tu guardi alcuni prodotti, magari non quelli di prima fascia, ancora faticano a vedere la luce di quello che faceva l'iPhone 4-5 anni fa. Sì. Sentiamo Davide che ci telefona da Napoli. Buongiorno Davide. Buongiorno, molto interessante la vostra trasmissione. Volevo dire semplicemente una cosa, che secondo me Jobs è stato un grande innovatore, però da qui a dire che ha rivoluzionato letteralmente la vita delle persone, cioè ce ne passa, perché comunque credo che sia stato anche un uomo di marketing, perché sì. Credo che comunque i gadget che la Apple produce siano ottimi prodotti, però secondo me un consumatore abbastanza esperto guarda anche il rapporto qualità-prezzo quando va, diciamo, a selezionare un prodotto che può soddisfargli le proprie esigenze. Quindi, diciamo che sono milioni i consumatori che valutano il rapporto qualità-prezzo in favore della Apple. Ma Davide, una curiosità, siamo stati noi a dire che ha rivoluzionato la vita delle persone? No, assolutamente, ecco. Perché io vi seguo spesso. Siete molto attenti a queste cose, solo che ho capito qual è il suo concetto, diciamo tutti stanno dicendo che ha cambiato la vita, forse giustamente lei dice abbiamo un po' esagerato eccedendo questa cosa, cioè penso che siano altre le rivoluzioni. Certo. No, è chiarissimo, grazie di averci chiamato Davide. Volevo coinvolgere sulla qualità prezzo, bisogna intendersi, e sui telefonini è difficilissimo cercare di capire qual è il vero la qualità prezzo. Io posso essere d'accordo che forse l'iPhone oggi, abbiamo visto prima i prezzi a cui potrebbe uscire, è sicuramente un telefono costoso, un top di gamma, però guardiamo anche, ci sono dei telefoni da 300 euro, sì, ma 290, c'è una componente che forse io non comprerei, attenzione, quindi è difficile veramente. Adesso qua c'è una componente che Antonio Dini ci aiuta a comprendere, perché è un po' come le automobili, ci sono automobili che fanno più o meno le stesse cose, costano magari 10.000 euro in meno rispetto ad altre. Visto che Antonio Dini ha scritto un libro che si chiama Emozione Apple, la componente emotiva è forse, non dico tutto, ma una buona parte del business. La componente emotiva, nel senso che la Apple non si appella esclusivamente, non si è mai appellata con Steve Jobs, perlomeno esclusivamente al lato razionale, lo fa, lo ha sempre fatto, però nella scelta del design, nel modo in cui struttura i suoi prodotti e nel modo in cui li comunica poi la pubblicità, la stesso uso estremamente ridotto della comunicazione, per cui Apple non può parlare nessuno che non fosse Steve Jobs, il quale parlava senza concedere interviste, semplicemente durante le presentazioni dei prodotti o quasi, utilizza un lato molto più emozionale, anche in modo abbastanza moderno, perché poi il marketing emozionale era una cosa che dagli anni 50 se ne parlava, si studiava e poi è diventato sempre più importante. Io vorrei aggiungere, è assolutamente vero, stiamo parlando di tecnologia, per carità, non stiamo parlando di nient'altro. Vorrei aggiungere un aspetto per quanto riguarda i prodotti della Apple, perché spesso ci si dimentica che effettivamente noi assegniamo un prezzo alle cose riguardo non solo a quanto è il costo con cui vengono prodotte, ma anche all'utilità. E quindi che cos'è che valutiamo dei prodotti della Apple? Non tanto l'hardware o il software o i servizi collegati, ma io ritengo l'integrazione fra tutto questo, cioè il fatto che portino con sé questi prodotti una serie di funzionalità strettamente integrate, strettamente funzionali, perché altre marche, altre case hanno parzialmente o comunque non riescono a replicare con la stessa facilità. In una filiera che Apple è stata molto abile, Steve Jobs è stato molto abile ad allargare, coinvolgendo non solamente l'hardware e il software, ma anche tutta una serie di servizi come la musica per quanto riguarda gli iPod e tutto il resto, film e telefilm, eccetera, e adesso i nuovi servizi che stanno per essere lanciati gratuitamente di iCloud, cioè i servizi di cloud computing per la sincronizzazione. E poi qua c'è un elemento anche importante del mercato che non solo Jobs è stato più bravo, la Apple più brava degli altri, secondo me è una grande componente che non dico tutti gli altri, ma buona parte dei produttori sono incapaci di fare prodotti belli, perché effettivamente molti prodotti non sono belli, e direi anche a volte poco funzionali. Cioè io provo un po' di cose, non come fa Massimo Morandi la sua redazione, insomma, però noto che a volte ci sono altri produttori che non sono proprio capaci, quindi che sono perdenti per quel motivo. Antonio, visto che molti ascoltatori giustamente dicono, alcuni hanno esagerato a esaltare la figura di Jobs, dal punto di vista tecnologico vorrei anche citare alcuni fallimenti che poi lo stesso Jobs aveva ammesso, tanto per citarne due recenti. Ping, non so quanti se lo ricordano, è un social network che aveva cercato di introdurre dentro iTunes, e anche la Apple TV, o Apple TV. Tra l'altro la TV pare essere uno dei settori dove l'Apple potrebbe fare qualcosa nei prossimi anni, finora ha fatto flop, Antonio. Sì, ci sono stati questi e in tempi meno recenti vari altri prodotti, diciamo così, venuti male. Il rientro di Steve Jobs nel 97 seguì poco dopo il lancio del Cube, il Cubo, un Macintosh che è durato pochi minuti, su cui Jobs aveva scommesso invece tantissimo, e ce ne sono vari altri. Stavo pensando mentre parlavamo anche al perché forse Apple fa un po' meglio alcuni prodotti o li sbaglia, ma quando li sbaglia se la cava più velocemente, perché in realtà Apple fa pochissimi prodotti rispetto alla concorrenza. È un'azienda che ha una ventina di prodotti in tutto il suo catalogo. Samsung, per citarne una, lancia quasi 80 telefoni all'anno. Te ne cito un'altra, l'HTC, non si sa quanti telefoni. E questo ha un vantaggio molto forte, che puoi prestare molta più attenzione al prodotto, nel senso che l'iPhone, che ha il 5% del mercato mondiale della telefonia, di tutti i telefoni, anche quelli da 70 euro, è un telefono sul quale Apple ha investito ininterrottamente i suoi investimenti e ci ha lavorato, l'ha smussato, l'ha rifinito, come altre aziende non possono fare quando hanno una roadmap di 10 lanci al mese o quasi. E allo stesso tempo, se il prodotto poi viene male, si fa presto a sostituirlo, perché tutto sommato ne hai sbagliato solo uno, non hai sbagliato tutta una filiera di prodotti. Sì. Sentiamo William che ci telefona da Pistoia. Buongiorno William. Salve, buongiorno, anzi buonasera a tutti. Io volevo parlare in realtà del cloud computing. Sta venendo molto fuori con Apple, perché pare che Apple lo voglia usare un po' come il nuovo sistema informatico, il nuovo sistema, diciamo, d'avanguardia. Io sono dell'idea invece che il cloud computing sarà la morte assoluta della libertà informatica, perché il fatto di avere un sistema operativo online, quindi non residente sulle proprie macchine, quindi dove avremo una vita per forza online, che per qualunque motivo, se non possiamo pagare una bolletta della DSL o se non abbiamo campo, le nostre macchine sono delle scatole vuote. Questo sinceramente spero che non diventi assolutamente lo standard del futuro, però già vedo che per esempio anche la vostra emittente sponsorizza spesso l'utilizzo di software di contabilità che fa base proprio nel cloud computing. Addirittura, ora mi veniva in mente velocemente anche il fatto che alcune persone abbiano passato il cloud come un punto d'incontro del povero Jobs, perché alcuni hanno detto infatti ci rivedremo lì nella tua cloud. Ecco, io volevo testimoniare questo, da ex informatico non toglierlo assolutamente, e ho veramente paura di questo sistema. William, è molto interessante quello che lei dice, ne teniamo nota in una delle puntate prossime che dedicheremo prima o poi al cloud computing. È molto molto interessante, sicuramente ci sono dei vantaggi, dei rischi, degli svantaggi, delle opportunità. Faccio solo una parentesi sulla pubblicità che facciamo, naturalmente c'è anche un controllo su quello che va in onda, però la pubblicità è una parte, diciamo, divisa dalla, no, dalle trasmissioni, quindi se mandiamo in onda spot che pubblicizzano il cloud computing, che è un grande trend del mercato, non è che quella è la nostra posizione, la posizione dell'azienda che pubblicizza. E grazie a quell'azienda e quelle aziende, poi noi andiamo in onda e possiamo dire queste cose, gli ascoltatori possono dire la loro. Sono le 16:45 minuti, c'è la viabilità o anche un po' di pubblicità? Anche un po' di pubblicità, che è appunto la cosa che ci permette di fare poi la viabilità. Tra poco. 2024. 16:47 minuti, vi ricordo la versione podcast del nostro programma, la troverete entro le 18:30, questo è un impegno che ci siamo presi, che mi sono preso per mettere a disposizione il file MP3 della nostra trasmissione di 2024. Secondo Carmelo Lauricella, che oggi è il nostro tecnico in regia, l'innovazione, il prodotto, il servizio più interessante e innovativo è stato l'iTunes, che naturalmente accoppiato all'iPod ha veramente cambiato la musica. Ma anche in quel caso, certo, la Apple ha fatto la propria parte, ma il problema sono tutti i rappresentanti, tutti i protagonisti della filiera della musica che ancora oggi non ci hanno capito nulla. È lì il problema, cioè sono gli altri che sono incompetenti. Pensate al cinema, alla TV, sono di fronte a un mondo che sta crollando, ma nessuno capisce come uscirne fuori. Ivan da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo fare un intervento in merito all'affermazione che Steve Jobs sembra o non sembra aver cambiato la vita delle persone. Personalmente io ho visto la mia vita letteralmente cambiare nel momento in cui 10 anni fa sono passato ad Apple e ho visto cambiare la tecnologia a casa mia, e con iPhone di fatti ho visto una cosa che prima non si vedeva, ovvero una volta si fagocitava di fatti la tecnologia perché era di moda, perché guarda cosa riesce a fare il mio telefonino. Adesso la tecnologia è diventata più un qualcosa che è utile, la stiamo utilizzando in maniera più intelligente. Penso a una vignetta che è comparsa nei vari giornali americani in cui c'è Steve Jobs che sale in paradiso, trova San Pietro con questo grande librone con l'elenco degli invitati, chiamiamoli così, e lo guarda e gli dice: ho un'app per questo. Che carina, sì. Molto divertente, però un po' rende l'idea, nel senso che questo c'è un'app per tutto, fondamentalmente ci dà la possibilità di essere in contatto col mondo quando vogliamo, dove vogliamo, semplificarci l'esistenza, ripeto, utilizzandola in maniera intelligente. Cioè sono sempre stato contrario a chi compra l'iPhone perché va di moda, perché se non hai l'iPhone sei out, cose del genere. Bravissimo. Sono sempre dell'idea, quando mi domandano: ma secondo te, io vorrei comprarmi l'iPhone, io guardo i miei amici e dico: ti serve? Cosa pensi di poterne fare? Ti presto il mio per qualche giorno, dopo vedi se riesci a perché poi l'utilizzo di un qualsiasi device dell'Apple fondamentalmente è facilissimo, a prova di stupido, come dico sempre io, ed è stato sempre uno dei punti di partenza da cui Apple ha poi sviluppato qualsiasi suo device. E l'utilità è facilissimo da utilizzare, però bisogna anche saper sfruttare questa sua utilità, secondo me. In questo senso ci ha cambiato la vita, nel senso che ci ha fatto capire che forse la tecnologia può essere a nostro servizio e non noi dipendenti dalla tecnologia. Sì. Grazie Ivan, mi trovo d'accordo questo suo intervento. A proposito di San Pietro, ho letto tra le tante cose che ho letto in questi giorni che addirittura l'Osservatore Romano ha dedicato una parte della pagina alla scomparsa di Steve Jobs, e la cosa non capita molto spesso. Massimo. Ma io volevo fare una annotazione sulle app, che sono diventate importantissime quanto quasi la piattaforma di un telefonino oggi. Perché? Perché comunque ci permettono di avere, io e te Enrico, lo stesso telefonino, ma un telefonino completamente diverso, perché a seconda delle... Il mio è proprio diverso di sicuro. No, ma non è un iPhone. Perché in realtà noi possiamo tappezzare il nostro smartphone con tutte le app di ciò che ci interessa di più, e quindi personalizzarlo e renderlo comunque unico. Diverso. Io poi ho anche un iPhone che uso per provare, vedere, eccetera. Dunque, Augusto da Milano, buongiorno. Poi sentiamo Antonio Dini, perché ho due domande per Antonio. Augusto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi sente? Benissimo. Volevo riagganciarmi alla riflessione che avete fatto su quanto la Apple sia stata innovativa o meno, ed è interessante che c'è un prodotto che non è proprio Apple, ma di Steve Jobs, che si chiama il Next, che era dei primissimi anni 90, incredibilmente innovativo, e purtroppo fu un flop. E poi ci fu un secondo prodotto, questa volta della Apple, che era il Newton, anche questo estremamente innovativo, ma purtroppo anche questo fu un flop. E allora la riflessione che volevo fare è che a volte se l'innovazione arriva troppo presto, paradossalmente non ha poi successo, ecco. Esatto. Antonio, tu ricordi sicuramente bene sia il Next, che prende nome dall'azienda che Jobs fondò negli anni 11-12 anni in cui è stato cacciato dalla Apple, e anche il Newton, effettivamente due prodotti interessanti, ma che possiamo inserire nella lista dei fallimenti. Beh, allora Next, la Next Station e gli altri computer realizzati quando Steve Jobs aveva appunto uscito da Apple nell'85, fondato dopo pochi anni questa nuova azienda che doveva essere la sua nuova Apple, in realtà l'hardware è andato male, ma il sistema operativo è stato costantemente sviluppato ed è diventata la base quando poi Next è stata acquistata da Apple nel 97, e Steve Jobs tramite quel modo è riuscito a comprarsi Apple facendosi pagare da Apple stessa per farlo, quindi rientrando in azienda, è diventata la base dell'attuale sistema operativo, quindi l'innovazione non è andata perduta. Newton invece è un prodotto che è nato quando Steve Jobs non era in Apple, è un frutto proprio originale di quei 12 anni di interregno senza di lui all'interno dell'Apple, ed era assolutamente un prodotto geniale che è costato tantissimo e che è stato diciamo così portato avanti come primo esempio di personal digital assistant, di assistente digitale personale. Aveva un riconoscimento della calligrafia un po' ondeggiante, però funzionava con un pennino, chi ne ancora ne possiede uno ne conta i suoi miracoli, però da un punto di vista commerciale era troppo presto. In effetti questo che l'ascoltatore diceva è assolutamente centrale, ovvero sia che l'innovazione deve arrivare al punto giusto, certo. Esatto, se non arriva nel momento più opportuno. Senti, adesso a tuo parere, non dico che cosa succederà perché questo è difficile da sapere, ma Tim Cook riuscirà in qualche modo a tenere la barra dritta e continuare sulla scia dell'innovazione che abbiamo visto fino ad oggi? Io innanzitutto lo faccio qui pubblicamente con Tim Cook, se mai dovessi portargli dovrei scusarmi perché ero presente alla sua presentazione il giorno e mezzo prima che morisse Steve Jobs, e ho scritto sul Sole, sul giornale, che appariva timido e un po' troppo rigido, un po' troppo emozionato per essere un professionista. E tu dici forse c'era un motivo, certo. E forse c'era un motivo, perché pare che già dal lunedì, la presentazione è stata martedì, già dal lunedì era stato informato il dipartimento di polizia della contea dove risiedeva Steve Jobs per preparare un servizio d'ordine nel caso che l'imminente morte della persona avesse portato così a persone che volevano rendergli omaggio, quindi assolutamente. Quindi evidentemente quel pacchetto di manager è andato sul palco, Tim Cook in testa e poi il resto della sua squadra, pensando, facendo andare avanti uno show, ma pensando a che cosa stava succedendo dietro le quinte. Detto questo, Tim Cook è sicuramente la persona migliore per dare continuità al lavoro fatto da Steve Jobs, cioè lui ha tutte le conoscenze e tutte le capacità per andare avanti, direi indefinitamente, sulla strada segnata da Steve Jobs. Su questo non c'è nessun dubbio. Il vero dubbio è quando la strada segnata da Steve Jobs non avrà più senso, perché sarà passato abbastanza tempo, saranno passate le cose e quindi le strategie dovranno essere necessariamente diverse, gli approcci necessariamente diversi, quindi non domani ma fra qualche anno, anche perché Apple è diventata un'azienda molto grande che ha bisogno di molto tempo per perdere quote di mercato mettendosi a rischio. Ecco, quando ci sarà da inventarsi una strategia nuova, chissà se Tim Cook sarà l'uomo più adatto. Sicuramente, esatto, per portare avanti l'attuale, meglio di lui non ce n'era. Bene, grazie ad Antonio Dini che è stato con noi in questa seconda parte di 2024. Ricordo, Antonio, alcune delle cose che ha detto le ha anche inserite in questo bel libro intitolato Emozione Apple. Buon lavoro, a presto, Antonio. Grazie a te. Ringrazio anche Massimo Morandi. Massimo poco fa mi diceva in un orecchio, giustamente, abbiamo visto tra le telefonate, i messaggi degli ascoltatori, praticamente nessuno è interessato al 4S. Sai, al di là poi del tema di oggi e della grande emozione ancora che ha provocato la scomparsa di Steve Jobs, bisogna dire che quando si alza tanto l'asticella delle aspettative, poi è anche possibile che qualche volta si deluda l'audience. Sì. Prossimo appuntamento importante per la telefonia mobile, possiamo definirlo quello di Nokia World alla fine di ottobre. Nokia World alla fine di ottobre. Dovrebbe quando arrivare. Finalmente vedremo i nuovi smartphone Nokia con piattaforma Windows Phone. Siamo sicuri? Siamo sicuri. Vabbè, che qua ci sono attese su tante cose, poi li vedremo e poi li vedremo anche subito dopo nei negozi. Molto bene, grazie a Massimo Morandi, direttore di Cellulare Magazine. Mancano pochi minuti alle notizie di GR24. Io sono Enrico Pagliarini e vi ringrazio per averci seguito anche in questa puntata. Vi ricordo, tra poco sarà online il file MP3 della nostra trasmissione. Andate sul nostro sito internet www.radio24.it nelle pagine di 2024 e naturalmente anche nella pagina dedicata al podcast. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024.